insani. Blocchi insani di rime, occhi in sangue si vive dentro a questi giorni di delirio, motivo per dire che anche se mi uccidi resto in piedi, mondo file persi come pochi. Blocchi insani di rime, occhi in sangue si vive dentro a questi giorni di delirio, motivo per dire che anche se mi uccidi resto in piedi, mondo file persi come pochi. Alla fine tienimi sotto pressione, sporca vita, questa è una sfida e come vedi non mi pieghi mica. Mi son caduti addosso così tante cose che nemmeno più mi sposto per tentare di salvarmi. E scusa se oggi uso versi come armi, se le frasi più taglienti fanno danni. Blocchi insani di rime, con l'odio viscerale danzano nell'aria, nello stile, melodia della mia bile riversata in versi. Canto con parole sporche la canzone che non pensi che porti a nulla di buono, chiaro come il sole che io chiaro non sono. Nei miei discorsi controversi rendo esplicito il suono. Cosa ne rimane del rimare se nel mare di rime non sai remare? C'hai la barca ma va a fondo, vola piccolo il mondo mentre io non sono a bordo. È un brodo di insulti che imbratta il tuo borgo borghese. Viviti la tua città bene, con le teste dei tuoi capri espiatori appese alle porte. Scarica le colpe che non appena puoi, tu le trasformi in sorte avversa a noi. E magari è solo che ci penso troppo, ma non farci pensare è proprio quello il gioco. Per benista rigira la frittata di merda sino a che a prima vista non sembra tanto male, ma so quanto sei infame in verità, catapultato a forza nell'orrenda realtà che hai creato. Io non me ne sto zitto e fino a quando ho fiato lo urlo il mio astio, tu l'hai provocato senza giustizia alcuna, dannato fatto. Continui a darci addosso, da ogni colpo mi sono rialzato più cattivo ed insensibile, almeno così vedi che all'odio non c'è limite se lo coltivi. Raccogli blocchi insani di rime ed io con gli occhi in sangue affronto nuovi giorni di delirio. Assisto a un costante declino, sospeso ad un passo dal commettere omicidio. Blocchi insani di rime, occhi in sangue si vive dentro a questi giorni di delirio, motivo per dire che anche se mi uccidi resto in piedi, mondo file persi come pochi. Blocchi insani di rime, occhi in sangue si vive dentro a questi giorni di delirio, motivo per dire che anche se mi uccidi resto in piedi, mondo file. No, sono solo giochi con blocchi di rime. Sono tocchi di stile con gli occhi di chi vive con poche aspettative. Sono notti insonni, sono blocchi insani nei giorni con contorni sfumati e fumato che voglio comporre in rime. Ciò esprime lo spazio e il tempo sul sempre che ha un senso, e se lo vivi intenso è più denso del fumo dell'incenso. A volte penso che c'è troppo non senso e troppa ipocrisia in queste vie, sì, è troppo perverso. È verso sta gente che ha perso ogni barlume. Io c'ho un sentimento inverso, ogni mio verso l'assume. Terzo d'acume, trova il tuo orlo attraverso un albume. Nel precipizio sull'orlo posso perdere le piume. Già mai il vizio di tizio caglia sempre le rime, mi zizio, ne anestetizzo come minimo, li minimizzo. Sciocchi, ma i blocchi insani di rime che utilizzo bloccano i miei mali, così li esorcizzo. Nessuna certezza, rappezzando una bambola di pezza, zoppico, ho troppa inconsapevolezza e un monito. Sta tristezza mi rende attonito, in più vomito, in più politico in TV, oggi fa il comico. Spasmodico, spengo la tele, entro radiofonico, il nulla è entrato dentro al mio tubo catodico. Bruciano i libri, scambiano scienza con scemenza, evoluzione o religione o fanno essenza. Essenza pura, il clero cura con paura, lo sclero dura col terrore per la pula, punto di rottura. Sti blocchi insani adesso forse sono la cura che portano la cultura contro un mondo che l'autura, che l'oscura. E resta nella gente questa musica potente e scura, e chi la sente prova odio contro ogni censura. Blocchi insani di rime, occhi in sangue si vive dentro a questi giorni di delirio, motivo per dire che anche se mi uccidi resto in piedi, mondo file persi come pochi. Blocchi insani di rime, occhi in sangue si vive dentro a questi giorni di delirio, motivo per dire che anche se mi uccidi resto in piedi, mondo file. Blocchi insani di rime, occhi in sangue si vive dentro a questi giorni di delirio, motivo per dire che anche se mi uccidi resto in piedi, mondo file persi come pochi. Blocchi insani di rime, occhi in sangue si vive dentro a questi giorni di delirio, motivo per dire che anche se mi uccidi resto in piedi, mondo file. Thank you. Dillo anche ai tuoi amici. Le feste sono vietate. Niente musica alta, niente alcol e niente droghe varie. Ne smettila di sniffare incenso.